se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma sono mollo, quale mollo? Ci mancherebbe, se sei mollo non fai questa attività qua. Ricordatevelo, questa è la più dura del mondo. Io in queste ore più che preoccupato per l'aspetto democratico, che pure è importante, e sono orgoglioso che ci sia un partito. Quello che mi colpisce in questo momento è l'atteggiamento un po' strano che ha 5 Stelle sui vaccini. Quando si parla dei vaccini, su quello non si scherza. Allora, sui vaccini bisogna smettere questa indecorosa e indegna campagna perché che viene fatta. Scusi. E anche sui vaccini, la smetta di parlare dei vaccini, Renzi. Continua a dire sciocchezze. Noi ci siamo affidati a grandi esperti per diffondere la cultura della raccomandazione sui vaccini. Dire che il Movimento 5 Stelle è contro i vaccini è una sciocchezza e lui lo usa in maniera strumentale perché? Perché non può parlare di temi, perché i temi veri del paese lui li ha già affrontati e ha fallito. L'argomento qual è? L'argomento è che c'è chi dice che i vaccini fanno male, che non bisogna fare la mammografia, sono parole di Beppe Grillo. Guardate, è ancora su internet, lo spettacolo di Beppe Grillo del 2007 in cui dice no ai vaccini, no alla mammografia. C'è qualcuno nel Movimento 5 Stelle che crede alle scie chimiche, che crede che gli americani non sono andati sulla Luna ed è un complotto. Una deputata crede che esistano le sirene. Ma come? Ma come? Ma ieri abbiamo dato la carta costa all'articolo, un'intera pagina sulla stampa che racconta che ci sono i corsi di mermaiding, di sirene, e adesso le sirene non esistono. Autocontrollo. Guarda, qua ci vuole Vincenzino, Vincenzino caro, questo proprio ci vuole, bravo, autocontrollo. Non lo so dire come te che condurrai presto 24 mattino qua nella versione 4.0. Ma sono cose sconvolgenti. Ragazzi, allora, ste sirene esistono o no? Se non esistono, perché esistono i corsi da sirena? Ma che meraviglia. Signori, qua non si capisce niente, non si capisce bene dove si va a parare. Intanto si va a parare, mamma mia, quello che è successo ancora ieri a Parigi è ancora poco chiaro. Tra poco lo diremo per quello che si capisce dalle agenzie. Un attentato terroristico nuovamente sugli Champs-Élysées, mica su un viottolo di Parigi, sulla via più controllata. Un uomo che ha sparato col Kalashnikov ha ucciso un agente. Pare un secondo attentatore in fuga. Pare, perché non si capisce bene. In Francia dicono abbiamo individuato chi è che ha colpito, ma non diremo l'identità finché non chiuderemo le indagini. Secondo altri c'è un secondo attentatore venuto dal Belgio che sarebbe in fuga. Ci risiamo a 2 giorni dal voto delle presidenziali, tra l'altro, in Francia. Signori, i nostri ascoltatori ci fanno sapere che a Coldrerio, in Ticino, c'è 1 grado, grazie a Roberto, mentre a Cadriano, Bologna, 5 gradi. 3 gradi a San Fior di Sopra, nella Marca Trevigiana. Un abbraccio a Pier Giuseppe. Mentre a Falcade, 4 gradi. No, meno 4 gradi! Meno 4, Federico, meno 4, non 4, meno 4, signori. A Cammarata, 5 gradi. Grazie, Giuseppe. Anche a Paese, Treviso, 5 gradi. Aspettando gli alpini, Dieng. A Binzago 6 gradi, a Castellana Grotte, provincia di Bari, zona Pozzo Cucù. Ah ragazzi, guarda, no, non cercare Lorenzo, già cerca zona Pozzo Cucù, a Castellana Grotte, 4.1 gradi, Angelo. E va bene, a Valbona, la mia Valbona Piateda, meno un grado, dove ho passato l'infanzia, a Valbona. Valbona, Sondrio. Sono Luciano Ligabue, anch'io la mattina ascolto Alessandro Milan. Vacca boia. È venerdì. Signori, non mi rompete i coglioni. Devo subito salutare il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni. Massimo, ciao, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti, sto bene. Oggi grande numero della Verità, perché anche perché ospita una mia intervista e quindi, insomma, come dire, il livello. La verità sui vaccini. La verità sui vaccini, vedi, abbiamo iniziato sui vaccini. No, devo dire questa, vabbè, la diciamo tra poco, perché questa intervista mi ha veramente aperto gli occhi. Però Massimo De Manzoni, dobbiamo accogliere la nostra ospite con il titolo della Verità di pagina 18. Le donne vivono a lungo, ma sono depresse. Fanno poca attività fisica, fumano, consumano alcolici. Praticamente il ritratto di Chiara Geloni. Signori, già ubriaca. Ubriaca. Appoggia un attimo il bianchino. Il sì. Bianchino e niente. E anche la sigaretta o le canne. Ecco. Attenzione, sì. Diciamolo subito. Tu sei fatta le canne, Chiara? Ma sai che non so neanche come sono fatte. Ma dai, mai, mai. Pur essendo stata giovane anch'io, perché il sindaco di Milano, Massimo, ha detto che si è fatto una canna. Sono stato giovane anch'io, ha detto, no? Anch'io sono stato giovane, anche tu. Tutti sì. Siamo stati giovani. Però c'è un però in questa frase. Beh, può capitare. Può capitare, sì, può capitare. Apriamo il Parlamento. Ma non è quello il problema. Ma l'abbiamo già aperto il Parlamento? No, non l'abbiamo. Apriamo il Parlamento. Adesso mi ci dici qual è il problema. Ragazzi, se uno esce, tanto se un caffè e gli state sopra. Sentiamolo, Sala, no? Perché dice, sono stato giovane anch'io, mi sono fatto una canna. Ma dice, cos'è che c'è il festival della canna, della canapa? Della... Vabbè, senti qua, Sala. Lei si è fatto una canna? Sì, l'ho già detto, cioè, sono stato giovane anch'io, quindi... Quindi sì, cioè non da questo punto di vista cerco sempre di essere sincero. Si aspettava la domanda, ovviamente. Sì, l'ho già detto. Notizia vecchia. Qual è il problema, Massimo, di questo? No, il problema non è quello che fa uno individualmente, ma che se poi riveste un ruolo e dà il patrocinio o in qualche modo giustifica una manifestazione pubblica, cambiano le cose. Il sì. Problema non è che lui si sia fatto una canna, e poi se uno se ne è fatta una, se ne è fatta anche più di una probabilmente nel passato. Il problema è se adesso il sindaco di Milano patrocina una manifestazione che propaganda la canna. Sono due cose diverse. Beh, certo, questo sì, cioè, anche perché almeno la sincerità di dire ma sì, me la sono fatta, cioè, cosa devo fare? Devo rinnegare il passato. Chiara Geloni, però mi interessa questa cosa. Com'è possibile che tu non abbia mai visto una canna? Dai, in tutti i circoli del PD che hai frequentato, no. Giravano... Ma non dai, su nelle... PD quando ero giovane. Dai, nei DMDS, in che fase no, sei arrivata tu? PDS, ma... PC? No, io quando ero giovane frequentavo... associazioni cattoliche, no? La politica. E lì girano, hai voglia? Evidentemente no, da quelle parti lì no. Da quelle parti lì no? Non so, sai, dipende molto in quali compagnie, quali giri ti trovi. Non so, non mi è mai capitato. Non è che ho fatto, no, sai, quelle cose, no, io non fumo. No, proprio non fumo. Capitato, oh, no? Ragazzi, e che dobbiamo fare? Massimo, sono spiazzato, non so, alzo le mani di fronte a questo. Non è una cosa grave. Ma no, non è grave. No, che, si può sopravvivere. Sì, sì, ma certo, ma non averne mai vista neanche una, cioè così che passava 10 metri, mi sembra un po' una coincidenza abbastanza incredibile. Ha vissuto in una campana di vetro. È viva. Evviva, insomma, va bene, va bene. Chiara Geloni non, mai, non ha mai visto una canna, cioè neanche non mi sono mai fatto una canna, non so neanche com'è fatta questa. No, a volte quando è capitato ai concerti, no? Che qualcuno diceva, senti che odore di canne, e io pensavo, dice, ma è la prima volta, questo è l'odore di canne, va bene. Ecco, va bene, dai, abbiamo iniziato così. In realtà la questione che veramente incombe è quella del terrorismo. Ma davvero, cioè, perché ho letto su qualche titolo di giornale, insomma, con le presidenziali c'è il rischio poi che adesso l'ISIS in qualche modo condizioni le presidenziali. Ovviamente cosa ha fatto Le Pen, la Le Pen, no? Caro Massimo, subito, no? Calca il pedale su questa cosa, no? Davvero, cioè, c'è il rischio che questo attentato, speriamo davvero non succeda niente in questo weekend, possa in qualche modo compromettere le elezioni, nel senso orientare anche il voto dei francesi. Beh, ma mi sembra normale, tutto quello che succede nella vita orienta il voto. Se i francesi dopo una serie di attentati hanno più paura, è chiaro che si rivolgano verso chi promette di andare incontro alle loro paure, cercando di dare più sicurezza. E in Francia poi c'è un dibattito molto forte che in Italia manca, perché non siamo ancora a livello francese, sul modello di società, sul modello multiculturale che è stato adottato e che sta naufragando miseramente. Questo, beh, sì, si può dire, visto che le banlieue, a prescindere dal terrorismo, ci sono. Molti degli attentatori vengono da lì, cioè sono cresciuti lì, quelli che hanno colpito in Francia. Zone radicalizzate in cui sì, appunto, non sembra neanche di essere in Francia. Io sono stato a Parigi a distanza di qualche di un po' di anni e ho preso paura, devo dire la verità, non la riconoscevo per tutti versi. Il numero di donne velate che gira per Parigi è abbastanza importante. C'è un fenomeno di questo tipo, è chiaro che se c'è una persona che invece comincia a dire la Francia e i francesi basta con questo modello, in una situazione come questa può avvantaggiarsi. Questo discorso, certo, questo discorso in Italia c'è secondo te, Chiara Geloni? Cioè o c'è meno o c'è più in Francia o... No, c'è più in Francia, perché c'è in Francia una proposta che ha saputo conquistarsi spazio, come quella di Marine Le Pen, che parte da una posizione di destra addirittura fuori dall'arco costituzionale francese della République, ma che ha anche degli aspetti di modernità, di cambiamento rispetto a quella che era la posizione del padre. E in Italia secondo me non c'è una proposta altrettanto forte di nuova destra di quel tipo. In Italia c'è anche un sistema elettorale diverso, quello della Francia è molto peculiare e finora è un sistema che è servito a tenere lontane le proposte più estreme dalla vittoria elettorale. Potrebbe anche, io non lo sto prevedendo, non sto dicendo che credo che avverrà, ma potrebbe anche quel sistema che concentra nel secondo turno i consensi solo su due forze, potrebbe anche, non è mai successo, ma invece favorire la vittoria di una proposta più estrema. Sì, c'è da dire che in Italia ci si concentra molto sugli immigrati. Guarda qui anche voi cosa fate, caro Massimo, oggi. Ma com'è? Ma guarda, in prima pagina ci sono una signora che d'altro abbiamo ospitato anche noi varie volte, Regina Catrambone, che insieme al marito Chris, filantropo, ha fatto questa come si può dire, neanche società, no Massimo, MOAS, no, non è una società, è una, sì, una ONG. Gli accusate di portarci un po' di immigrati in Italia? No, si autoaccusano solo per quello. Loro li salvano, sono lì per salvarli. 33.000, quindi... Sì, ecco, il problema, noi abbiamo voluto fare, non è la prima volta che ne parliamo, ma insomma... abbiamo voluto fare quasi una provocazione, nel senso che il ruolo di queste ONG va finalmente chiarito. Ieri per la prima volta sono filtrate delle perplessità persino dal governo sul ruolo di queste ONG. Ci sono delle procure che stanno indagando. apparentemente sono dei filantropi che salvano le persone che fanno per morire in mare. Nella realtà pare che le cose stiano un pochettino diversamente. E cioè, che siano le persone che sono in contatto diretto con gli scafisti e sanno quando vengono messe in mare le persone. Capito, ma, vanno praticamente a prendere. Ma basterebbe intercettare, voglio dire, nel mondo delle intercettazioni basta fare un'intercettazione, vedere infatti persino Frontex ha subito sollevato perplessità anche tracciando le rotte di queste navi di queste organizzazioni non governative. Si vede che ci sono delle notevoli anomalie che vanno troppo vicino alle coste libiche, che passa troppo poco tempo appunto tra quando c'è la messa in acqua, diciamo così, dei disperati e quando loro li raccolgono. E poi ci sono altri due motivi di criticità: primo, che se li portano tutti in Italia invece di portarli nel porto più vicino, non sempre il porto più vicino. Anzi, spesso non lo è, però è il porto in cui vengono accolti, mentre in altri vengono respinti, tipo Malta o in altri diciamo, dei fratelli. La seconda perplessità riguarda proprio la struttura delle ONG, che sono opache nel loro finanziamento. Allora che fanno? Che stanno facendo? Allora, noi facciamo così: dobbiamo andare al traffico, poi io voglio capire secondo voi cosa sta succedendo al Movimento 5 Stelle, perché dopo l'avvicinamento alla Chiesa, perché questo è stato dato di fatto, anche se ha creato un po' di malumore all'interno della Chiesa, adesso c'è questa cosa che se la prendono con i sindacati e con il lavoro. L'ultima proposta è quella, il sociologo De Masi è quello che li ispira: lavorare meno, lavorare tutti. Il futuro sarà lavorare 4 giorni a settimana. 4 giorni, signori, con lo stesso stipendio ovviamente. 4 giorni, io proporrei anche 3 o 2 o 2 e mezzo. Comunque, il traffico. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita, signori. Ecco il nostro. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta riguardo al lavoro della domenica. È possibile pagare i bollettini postali la domenica pomeriggio, oppure trovare un tribunale aperto la domenica pomeriggio? Grazie. Milan, tu quell'altro, ma perché lavorate? Non sapete nemmeno cosa vuol dire lavorare. Alessandro, se sei sportivo, dici una parola sul passaggio della Juventus. Sei ipocrita. E o Maria, mercoledì prossimo mi devi dire sì o no, devo organizzare tutto, ti devo organizzare anche l'albergo, lo comero. Quindi dove si lavora di meno si guadagna anche di più. E in più noi italiani abbiamo anche la fama di essere sfaticati nel mondo. Se gli italiani facessero gli stessi orari della Francia, avremmo 4 milioni di posti in più di lavoro, saremmo a posto. Se facessimo lo stesso orario della Germania, avremmo 9 milioni di lavoro in più, di posti di lavoro in più. Quindi potremmo dare lavoro a tutti i nostri disoccupati e anche a un paio di milioni di immigrati. Ale, il sociologo De Masi alla ricetta: lavorare meno, lavorare tutti, via la disoccupazione e pure 2 milioni di immigrati col posto di lavoro. Track! Soluzione. Chiara, aiutami tu, perché aiutatevi. Siamo con Chiara Geloni e Massimo De Manzoni. Ma che c'hanno adesso? Hanno anche detto i sindacalisti non possono fare politica, non so. No, ecco, questo è abbastanza divertente. No, dicevo, questa cosa lavorare meno, lavorare tutti, mi veniva in mente che è un vecchio slogan della CISL, quindi ma come hanno preso lo slogan dei sindacalisti? Proprio. Come dire, non si inventa niente, senza polemica, perché forse anche magari ha anche un fondamento, anche se poi andrebbe verificato nella congiuntura attuale se sia uno slogan realizzabile. E no, l'idea che i sindacalisti non dovrebbero fare politica veramente mi fa abbastanza... No, questo ti fa... Tra l'altro abbiamo anche degli esempi, insomma. Vabbè, insomma, ma non si capisce poi categorizzare, cioè questa cosa. Cioè, insomma, facciano politica con le regole, come tutti. Ma... No, ma io sai cosa direi? Diamo la possibilità alla gente di scegliere i politici. E poi vediamo se la gente sceglie un sindacalista... Oppure no, magari no. Vabbè, però quello vuol dire la legge. No, ma io non capisco questa cosa. Vuol dire che la gente che deve decidere la gente chi va in Parlamento a rappresentarla. Non lo so. Tu, Massimo, quanti giorni lavori, Massimo? Lavori adesso, si fa per dire, fai il mio stesso lavoro, come dice l'ascoltatore. Lavorare adesso, lavorare è un'altra cosa. No, non è proprio vero che facciamo lo stesso lavoro. Parli. Io parlo. ogni basta, non scrivo più neanche sulla verità. Mi autolicenzio. Ingrato. Io penso di lavorare tanto, ho sempre lavorato tanto. Vergognati. De Masi ti direbbe vergognati. Perché Porto Iovan, De Masi sta dicendo tutto il contrario di tutto. L'ultima volta che l'ho sentito diceva che bisogna lavorare gratis. Sì, lavorare gratis per far lavorare i disoccupati lavorino gratis, è meglio. No, lavorare gratis tutti praticamente. Scritto un libro anche. Sì, sì. Titoli proprio così, lavorare gratis tutti. Ma sì, stiamo degenerando, ma ancora una volta è il frutto di quello che sta succedendo e di quello che è successo anche con la globalizzazione. La tendenza alla disoccupazione, la tendenza a comprimere i salari sta provocando queste forme di reazione anche estreme, per cui alla fine mi sembra che Masi teorizzi un salario garantito per tutti, basso ovviamente, perché non può che essere basso, e poi il lavoro gratis fondamentalmente, giusto per non stare con le mani in mano. Sì, no, perché... io la teoria l'avevo vista così: se anche quelli che sono disoccupati, cioè proprio i disoccupati, dovrebbero lavorare per 3 mesi gratis, perché così. Non so, ti vengono a fare un lavoro a casa da idraulico, lo fanno gratis, questo abbassa il livello delle prestazioni, no? degli idraulici, quelli che invece vengono pagati, e quindi questo poi calmiera i prezzi. Esattamente questo, lo scopo. Così l'idraulico che guadagnava 50 euro deve abbassare a 30 e si apre il mercato al disoccupato che a quel punto diventa idraulico anche lui a 20. Creiamo tutta una catena di poveri generalizzati. Tutti lavorano ai 4 giorni. Non so, tu Chiara hai bisogno di un idraulico? Mi sembra di aver capito. Devi fare un appello pubblico, hai bisogno, c'è la lavatrice. Un idraulico gratis sempre. Un idraulico gratis. Cosa da fare, glielo trovo. C'hai la lavatrice, il rubinetto che perde, qualcosa. Un idraulico, se ti entra in casa qualcosa trova sempre, insomma, no. È tutto a posto. Vabbè, allora, insomma, poi rischio che mi metto io a fare l'idraulico. No, quello no, almeno se non ne hai le competenze. Però signori, ieri è successa una cosa politica, vorrei chiudere con questo. No, non chiudiamo con questo di Minzolini, ma chi se ne frega. No, Minzolini è stato votata la dimissione di Minzolini, ma per la quinta volta, io devo capire, dovrei entrare in Senato e dire: ma cosa vi succede? Per la quinta volta invece è stata respinta la richiesta di dimissione del senatore Vacciano, che noi tutte le volte ospitiamo. Il Senato non approva. No, presenti 227, votanti 226. De Manzoni non approva. Vacciano è 5 volte che si vuole dimettere. È prigioniero del Senato. Che tra l'altro ieri dice, oggi ha detto, sono basito. Ma come mai per Minzolini sì e per me no? Quinta volta. Deve creare un caso politico intorno a sé, come Minzolini. Allora loro lo sbattono. Lo sbatto non si sa. No, dai, ma chiudiamo con le metafore di Bersani, che è la rubrica nuova che piace molto a Chiara Geloni. E qui abbiamo un'interprete vera, capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Allora, noi da un po' abbiamo iniziato questa rubrica Le metafore di Bersani per farci aiutare dagli ospiti a capire il significato profondo di queste frasi. Oggi vi proponiamo questa. Attenzione, uno che va troppo arcore può lasciarci la canottiera. Uno che va troppo ad arcore. Ce l'hai, Bossi. Dai. No, secondo me è una fusione tra Bossi e Renzi.